America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Beh, vi riauguro il buon anno, perché anche se il buon anno formale ve l'ho dato venerdì 1 gennaio, oggi è lunedì 4 gennaio. Lunedì 4 gennaio, primo lunedì in cui si comincia la prima settimana completa dell'anno nuovo. È vero, in Italia abbiamo ancora l'Epifania che deve arrivare, molti torneranno dalle vacanze dopo il 6 di gennaio. Qua in America in realtà il 2016 ricomincia a pieno ritmo a partire da oggi, lunedì appunto 4 gennaio. Vi ho parlato di economia venerdì scorso, vi ho dato un quadro delle prospettive per il 2016 sia sul piano della politica internazionale che su alcuni aspetti della politica interna. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa nelle varie trasmissioni appunto di Scenario, e oggi voglio dedicare la trasmissione, l'ultima trasmissione di Scenari per il futuro, per il 2016, al tema centrale, al tema dominante di questo nuovo anno, e cioè le elezioni americane. La svolta storica. Si chiuderà nel corso di quest'anno l'era di Obama, un'era straordinaria, un'era che ha fatto fare agli Stati Uniti un balzo in avanti enorme dal punto di vista del progresso sociale, con il primo presidente afroamericano alla Casa Bianca, e avremo un nuovo presidente. Il ciclo della democrazia americana ricomincia, la battaglia è durissima, ancora non abbiamo idee chiare su come andranno a finire le cose. Perché? Perché c'è molta confusione anche per via di questo personaggio. Well, I think they're making a big mistake, number one. I think I'm going to be the one that beats Hillary. The Fox poll, your own poll came out and said I beat Hillary rather easily. And I think they are kidding themselves. Donald Trump, il grande provocatore, ogni volta che fa una sparata, e le fa sempre più grandi, ed ogni volta che queste sparate sembrano destinate a danneggiarlo, in realtà che succede? Aumenta l'indice di gradimento nei suoi confronti. È come se Donald Trump rispondesse a un bisogno non soddisfatto del pubblico americano, al pubblico americano che è preoccupato dagli attacchi dei terroristi in territorio nazionale, è preoccupato dalla percezione di una decadenza, di un declino degli Stati Uniti nell'essere il paese di riferimento dal punto di vista della leadership. E Trump sfrutta molto queste sensazioni per cercare di proporsi come il vero candidato alternativo, il candidato che può cambiare le cose. Vediamo intanto qual è il quadro dei candidati. In campo democratico Hillary Clinton, non ho bisogno di spiegarvi naturalmente chi è, Martin O'Malley, che è stato governatore del Maryland dal 2007 al 2015, non credo che abbia molte chance, Bernie Sanders, senatore del Vermont dal 2007, è un uomo della sinistra del Partito Democratico che è riuscito a raccogliere dietro di sé, devo dire, un forte seguito, un seguito davvero importante. Non credo che ci siano delle chance per questi due candidati. Nel campo democratico Hillary Clinton dovrebbe vincere in scioltezza e aggiudicarsi la nomination. In campo repubblicano, ce ne sono ancora 14, ben 14 di candidati. E ve li elenco: Jeb Bush, ex grande favorito, oggi in difficoltà, figlio del presidente, fratello di un altro presidente. Si parla molto di dinastia, ovviamente, perché sarebbe ironico che un paese come l'America, in continua trasformazione, abbia poi una Clinton contro un Bush. Rapidamente abbiamo Ben Carson, che è un ex medico, direttore del reparto neurochirurgia pediatrica della John Hopkins, si è improvvisato candidato alle presidenziali, ha fatto piuttosto bene, adesso sta soffrendo un pochino. Chris Christie, governatore del New Jersey, c'è chi dice che avrebbe fatto molto bene contro Obama nel 2012 e che ha perso la sua occasione. Ted Cruz, senatore del Texas, si agita moltissimo, è riuscito ad attirare l'attenzione su di sé, non credo che abbia delle chance molto importanti per la nomination, neppure Carly Fiorina, l'unica donna in questo gruppo di uomini, si vende come amministratore delegato, come manager in grado di rimettere il paese in carreggiata. Rand Paul, un liberista, un idealista, senatore del Kentucky dal 2011, anche lui non ha certo la stella dalla sua parte. Marco Rubio, senatore della Florida, ecco, Marco Rubio potrebbe riservarci qualche sorpresa. Donald Trump, in questo momento è in testa nella classifica per la vittoria del caucus dell'Iowa, potrebbe anche farcela, non credo che riuscirà a reggere il passo alle elezioni americane non sono uno sprint, sono una maratona. Ecco, poi ci sono altri candidati minori, Jim Gilmore, Lindsey Graham, Mike Huckabee, John Cassis. Ecco, John Cassis è importante perché è governatore dell'Ohio e quindi diciamo che potrebbe avere un ruolo. George Pataki, ex governatore di New York, Rick Santorum, che fece, come dire, un po' il botto nel 2012 per poi non riuscire ad aggiudicarsi la nomination, tra l'altro, di origine italo-americana. Ci sarebbero migliaia di approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi ho parlato di elezioni americane. Le elezioni americane sono per strada, sono porta a porta, sono stato dopo stato, sono 6 stati in un giorno, ci sono comizi in continuazione, sono delle elezioni appunto on the road. E dunque, di Willie Nelson, dedicata a tutti i candidati americani in questo 2016, On the Road Again. On the road again, just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again, da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.